Capitolo 22. Venezia. 11 febbraio 1547. La ragazza ha detto che il tizio era bruno, piuttosto alto, con una sirena tatuata sulla spalla. La ragazza ha detto anche che giocherellava in continuazione con i dadi. Ne aveva sempre uno in mano, perché gli piaceva scommettere, e diceva che più toccava i dadi, più la fortuna restava vicina. La ragazza piangeva, perché un taglio come quello, quando si rimargina, lascia una cicatrice bianca e lunga, che nei giorni freddi diventa violacea e sembra una malattia. Piangeva mentre lo raccontava, anche se è successo 4 giorni fa, perché ha il viso rovinato per sempre. Gli occhi di Demetra erano di ghiaccio. Ci si poteva leggere dentro il rimprovero, quasi un'accusa. Io non c'ero e lei non aveva potuto fare niente. Il giovane Marco avrebbe potuto prendersi una coltellata, ma a cosa sarebbe servito? Tra i singhiozzi la ragazza ha detto che il tizio parlava strano. No, non un accento come il mio. Diverso. Greco forse o slavo. No, non l'aveva picchiata. Solo il coltello. Ma credeva la volesse ammazzare. E diceva che se urlava la sgozzava come un agnello. Non ho detto niente. Credo davvero di non aver detto una parola. Ho incrociato gli occhi di Demetra e mi è bastato. Quello che devo fare. Un greco a cui piace giocare. Non ricordo di aver percorso a piedi la città, ma l'ho fatto, perché al rintocco ero davanti alla bisca del Moro, con gli occhi piantati in faccia al gigante sulla porta. Di al Moro che il tedesco lo vuole vedere. Golia deve aver sogghignato, o forse era un'espressione naturale, prima di infilarsi nella porticina. Ho aspettato finché il pertugio non si è riaperto e i denti bianchi del Moro hanno riflesso la luce della lanterna. Il sorriso di un pesce cane. Nessuno ha sentito la mancanza dei convenevoli. Un greco, forse un dalmata. Gli piace giocare ai dadi. Veste elegante e ha un tatuaggio sulla spalla, una sirena. Ha sfregiato una delle mie ragazze. Il Moro non ha battuto ciglio, ma il suo sguardo diceva che la notizia era arrivata anche a lui. Ha una condizione, tedesco. Pago gli sbirri per essere lasciato in pace. La faccenda la sbrighi fuori di qui e il tuo pugnale lo lasci a Kemal. Ho annuito, sfilando la lama dalla guaina e consegnandola al gigante. Il Moro si è fatto da parte, con un gesto d'invito. La saletta era silenziosa, solo il rumore dei dadi che rotolavano sui tavoli e imprecazioni sommesse. Le razze del mondo si erano date appuntamento là sotto. Tedeschi, olandesi, spagnoli azzimati, turchi e croati impegnati nel segnare punteggi su lavagnette appese alle pareti. Niente vino o acquavite, niente armi. Il Moro previene i guai. Li ho passati in rassegna uno per uno, concentrandomi sulle mani. Mani esplicite, in grado di raccontare storie. Dita mancanti, guanti portafortuna, anelli valutati sul posto e messi sul tavolo. Poi ho visto il dado che roteava nella destra. Un piccolo oggetto d'osso, che scorreva tra le dita avanti e indietro, ogni volta che la sinistra si apprestava a lanciare. Non deve essersi accorto di niente, finché non ha sentito il selciato sulla guancia. Qualcuno gli teneva il braccio dietro la schiena e intanto gli scopriva la spalla sinistra. Ha imprecato nella sua lingua, mentre i dadi d'avorio gli rotolavano fuori dalla tasca insieme alla fortuna. Poi ha potuto soltanto urlare e vedere la lama tranciargli di netto le dita della mano. Le hanno ritrovate all'alba i venditori di pesce, inchiodate a una delle transenne del mercato. A Venezia sono di nuovo Don Ludovico il tedesco, e devo occuparmi degli affari del bordello.